Incontri di Gianfranco Fabi. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai. Parole, parole, parole, questa canzone di Mina scelta da Giulio Sapelli. Buon pomeriggio Giulio Sapelli. Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Giulio Sapelli, laureato in storia economica, docente di storia economica, autore di numerosi libri, grande e attento osservatore del capitalismo italiano, delle imprese, della società italiana, degli intrecci tra economia e società, sui studioso della crescita economica, della modernizzazione, di tante cose. Di perché tutto. Parole per non prenderti troppo sul serio, per non prenderci troppo sul serio, perché tutte queste cose che lei ha detto sono frutto di accaniti studi e di anni di studi. E poi generalmente invece la gente ti incontra e ti dice: ah, ma che bello, l'ho sentita alla radio, l'ho vista in televisione. E tu dici: e nessuno poi si ha mai letto i miei libri. Ma brava, non si ricorda nemmeno che cosa aveva detto alla radio. No, certo, però questo non è affatto una sottovalutazione del ruolo della radio, che mi piace molto di più di quello della televisione, devo dire, ma è per non prendersi troppo sul serio. Beh, la radio è fatta di parole, però speriamo che dietro le parole ci siano anche dei contenuti, ci siano degli studi, delle riflessioni. La sua trasmissione sicuramente sì. Adesso ho avuto un incontro con delle persone. Allora vediamo un po' questa. Chi è Giulio Sapelli visto da Giulio Sapelli? Giulio Sapelli visto da Giulio. Non mi ero preparato su questo terreno. Devo dire che sono orgoglioso di essere figlio di un operaio torinese. Orgoglioso di aver fatto lo studente serale, di essere entrato in Olivetti giovanissimo a lavorare e aver fatto l'università lavorando, di aver avuto come maestro una persona come Franco Momigliano e poi di aver passato la vita tra l'impresa e l'università fino agli anni 80 più all'estero che non in Italia, cercando di studiare tutte quelle cose che lei ha ricordato e che così cortesemente ha voluto sottolineare. Ecco, ma il curriculum ufficiale di Giulio Sapelli, se lo dovessimo leggere, probabilmente occuperemo tutta la trasmissione. E non ha cambiato un po' troppo posti in questo? Sì, sono stato... No, diciamo che le cose più importanti che ho fatto sono stato circa 6 anni nel Consiglio di Amministrazione dell'ENI, che l'esperienza che mi è piaciuta e mi ha entusiasmato di più nel periodo del grande cambiamento dell'ENI. Ricordo subito quella che mi è piaciuta di meno, che è stata più faticosa e dolorosa, 7 anni presidente dell'Audit Committee di Unicredito, e poi ho fatto il commissario della Fondazione Montepaschi in anni difficili, mi è riuscito di cambiare lo statuto e di creare delle regole, una buona governance, poi naturalmente non si è riusciti a fare ciò che si doveva fare, privatizzare e purtroppo fare della fondazione un ente no profit. Sono stato in consiglio delle ferrovie, sono stato membro di tanti comitati, ho insegnato alla London School. Potesse scegliere una delle cose che ha fatto, quella avrebbe potuto essere l'esperienza della mia vita. Sono due cose insieme, se fosse stato possibile: continuare a insegnare l'École des Hautes Études con maestri come Maurice Brodel e Ruggero Romano e continuare a fare l'independent director dell'ENI. Quindi sempre questa commistione tra lo studio e l'impresa. E l'impresa, sì. Qualcosa di fondamentale in fondo, perché dà concretezza poi anche allo studio. Sì, io non riesco a fare solo il lavoro intellettuale come professione. Cadrei vittima di pericolose alienazioni e soprattutto di pericolose presunzioni. Sono già abbastanza un peccatore di superbia così. Credo che la virtù penultima dell'umiltà cresca se sei a contatto con quelli che poi devono farle le cose. Allora pratichiamo un po' la superbia anche con il giudizio. In Italia sia l'impresa sia l'università hanno qualche problema. Chi sta peggio? Dunque, l'università sta peggio di tutti, ma ha una buona riforma in atto. Io sono un sostenitore di questa riforma Gelmini, poi ha un sacco di ingenuità naturalmente, è stata mal comunicata, il ministro ha fatto poco parlare i suoi grandi consulenti, uno dei più grandi, un caro amico, è uno dei più grandi latinisti al mondo, il professor Schiesaro, che ha insegnato tanti anni nel King's College. L'università sta peggio perché è una piramide rovesciata, no? Ci sono tanti professori ordinari e pochi giovani. Qual è la differenza maggiore tra l'università italiana e quella degli altri paesi, quella francese? Non il livello scientifico. Noi abbiamo un livello scientifico che in certi settori non è uguale al mondo rispetto alla scarsità di risorse. Quindi, soprattutto nelle discipline umanistiche, come lei sa, abbiamo dei grandi centri di eccellenza nella medicina, nell'ingegneria. No, la grande differenza è il basso livello retributivo, che fa sì che i professori non si dedichino solo all'insegnamento, e poi il fatto che non è consentito per il sistema burocratico, per cose che vanno dalla validità legale del titolo di laurea alla comunità, diciamo così, omofiliaca sia dei professori di interesse, di professori di università, sia per i portatori di interesse dell'impresa, che non si possa stare 5 anni all'università, poi stare 8 anni nell'impresa e fare, certo, questi cambiamenti. E poi l'università produce dei giovani molto capaci, molto bravi, che vanno all'estero e non tornano più. Però devo dire, in questo c'è un po' una contraddizione, perché se lo siamo favorevoli alla globalizzazione, bisogna capire che la globalizzazione è la globalizzazione della cultura, della società. Io non ho niente contro che i nostri vadano all'estero, sono contento. Mi piacerebbe, però, come credo anche lei, che altre. No. Io devo dire, ho insegnato tanti anni all'estero, sono tornato in Italia per tanti motivi giusti, ma sarei stato benissimo all'estero. Quello che mi interessa e farebbe bene a questo paese è che avessimo altrettanti giovani stranieri che vengono a insegnare da noi. Cioè, che ci fosse una compensazione. Ci fosse una compensazione, un mix di culture, un getaway, no? E se no, insomma, tutto ciò che diciamo sulla globalizzazione sono tutte stupidaggini. Sono le parole. Parole, appunto, questo vede perché questa canzone di Mina non è poi scelta così. Ecco, ma i fatti concreti sono realizzare una struttura sì, anche universitaria, sì, di eccellenza. Sì, no? Di eccellenza ci va un sacco di tempo, non bisogna dire le stupidaggini di Abraham Avel sulla meritocrazia, che diciamo ognuno deve fare il suo mestiere, che si occupa di cultura, che invece ha fatto solo dei conti come lui, dovrebbe continuare a fare quelli. Il merito senza inclusione sociale non è merito, è una meritocrazia nel senso di oligarchia, quindi è una cosa negativa. Il merito vuol dire fare entrare nuove forze e nuove linfe vitali. Parlare, cioè, quello di che dice la Costituzione, capaci e meritevoli possono, sì, arrivare, sì, ai massimi capaci livelli. Capaci e meritevoli, e come diceva Karl Mannheim nel suo grande libro La democrazia e la società industriale, se non cambiamo a un'aristocrazia del sangue avremo un'aristocrazia del denaro. E quindi è difficile trovare i talenti in un'aristocrazia solo del denaro come adesso. Ma in questa prospettiva qual è la vocazione di un paese come l'Italia? Continuare a essere quello che siamo stati con fatica in grado di fare dall'inizio del Novecento fino ad oggi, trasformarsi da un paese agricolo commerciale sotto lo sguardo beffardo di Luigi Naudi e gli altri che avevano profetizzato per noi un futuro agricolo pastorale, e diventare una grande potenza industriale a metà tra i grandi e gli stati periferici. L'abbiamo fatto a prezzi di enormi fatiche, grazie all'intervento pubblico dello Stato, grazie a una miriade di imprese manchesteriane, cioè piccole e medie imprese rivolte all'esportazione, grazie ad alcune poche ma potenti grandi famiglie. E questa cosa, per una serie di errori, per le liberalizzazioni alla Helsing soprattutto portate avanti da Prodi, cioè le privatizzazioni senza liberalizzazione del periodo elsiniano, quello di Prodi, ha scassato l'impresa pubblica, l'ha distrutta, l'ha svenduta agli amichetti, e mentre avevamo dei veri tesori, le grandi famiglie si sono liquefatte. Delle nuove faticano. La politica sì, ma il vero problema, guardi, è vero che la politica, se lei pensa al Brasile, perché il Brasile ha avuto questo sviluppo? Perché ha avuto 20 anni di buona politica. Prima Cardoso, poi Lula, no? Quindi, e cosa ha fatto? Ha fatto la riforma agraria. Cioè, hanno fatto una riforma che ha scatenato tutte le altre riforme. Noi la politica abbiamo distrutto i partiti nazionali, grazie ai giudici, grazie all'estesa corruzione, e al posto dei partiti nazionali abbiamo messo dei neo-cacichismi, cioè dei gruppi di clientes, fatti da imprenditori e da capi bastone, che fanno dei partiti territoriali. In fondo il federalismo vero che abbiamo è il federalismo politico. Incontri. Parole, parole, parole. ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole. Queste parole di Mina, riprendiamo. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Riprendiamo il nostro dialogo con Giulio Sapelli, professore di economia, di storia economica, ha studiato all'Università di Londra, di Barcellona, di Buenos Aires. Adesso dove insegna Sapelli? A Milano, all'Università Statale di Milano. Qualche volta torno alle École des Études, dell'ultima mia università. E soprattutto ogni anno da circa 15 anni insegno nella nostra estate, che è l'aereo d'inverno, economia mondiale in Argentina, all'Università di Buenos Aires. Buenos Aires. Quindi parole per gli studenti, parole anche scritte nei libri. Quali sono gli ultimi libri che ha scritto? Gli ultimi libri è questo libricino succoso che si chiama 10 considerazioni sulla crisi economica mondiale, che è uscito da Bollati Bolinghiera. Una di queste 10 considerazioni? Che gran parte è stata colpa di che abbiamo dimenticato che l'economia è soprattutto frutto dei comportamenti morali e personali delle persone. Quindi una carenza di etica, si è detto molto spesso, sì, una carenza di etica. E di un eccesso di ambizioni e di sfrenatezza del guadagno, naturalmente favorito da una struttura come il fatto che abbiamo unificato banche commerciali, banche di investimento, quindi adesso... Cioè un'eccessiva liberalizzazione, quello che si diceva prima. Un'eccessiva unificazione, un rischio eccessivo e soprattutto un'eccessiva concentrazione del potere nei manager, dei top manager stock opzionisti. L'ambizione di poter pensare che si potesse annullare il rischio. Che potesse annullare il rischio e soprattutto, e questo è stato il fatto grave, perché io non ho nulla contro i guadagni degli hedge fund, del private equity, perché lì i manager rischiano i loro capitali, ci sono 100 investitori che sono consapevoli. Trovo abominevole che i governi consentano che si continui a fare ciò che è stato fatto in questi 20 anni, che si usi questo rischio depositato, come lei giustamente dice, con i capitali della signora Gina, con i risparmi, che uno porta i risparmi in banca pensando che siano sicuri e questi invece li usano per finanziare il supreme mortgage o una leva di una mille. La guerra in Iraq. Esatto, beh, no, insomma, sulla cosa della... io non sono un pacifista, non lo sono mai stato, per mia fortuna continuo a non esserlo, quindi diciamo le guerre non fanno bene all'economia, sono sempre... Non fanno bene alle persone soprattutto. E non fanno bene alle persone, no, quindi non è tanto finanziare la guerra, purtroppo abbiamo dovuto finanziare delle guerre quando c'era la guerra fredda, credo che dovremmo finanziarne anche, ce n'è soprattutto una che saremo costretti a fare, ma... nel prossimo futuro, ma su questo è meglio non parlarne. Ecco, in prospettiva, guardando appunto a un sistema economico che nella crisi si è sviluppato su se stesso, non riesce a uscirne, adesso c'è un problema molto grosso di disoccupazione, quali possono essere? I rimedi sono anzitutto pensare ad un'economia polifonica, cioè che l'economia non è uno strumento suonato con un solo strumento musicale, l'impresa capitalistica. Bisogna capire che l'economia, come ci dimostra l'esperienza mondiale, è un'economia che funziona bene se abbiamo le imprese capitalistiche, le banche capitalistiche, abbiamo le imprese, le banche cooperative, abbiamo le imprese not for profit, abbiamo esperienze di economia comunitaria come quelle di Chiara Lubich, a cui io sono molto legato, abbiamo una serie di strumenti e soprattutto quelli che, non avendo per fine il profitto capitalistico, ma un profitto che o si ridistribuisce alla società, e sono strumenti integrati. Creano occupazione. Ecco, però sono strumenti integrati nell'economia complessiva. Certo, sono strumenti non contro il mercato, ma che vivono in un mercato decentrato. È un po' il messaggio della Caritas in Veritate. No, è il messaggio della Caritas in Veritate. Finalmente, in pratica, se uno adesso, per carità, insomma, le parole del Santo Padre vanno prese con le molle, ecco, ma io sono sempre stato favorevole a una forma di socialismo di mercato e penso che nella Caritas in Veritate c'è una competizione tra imprese di tipo diverso, ma non c'è più l'orizzonte che avevamo anche in Nova, che in alcuni teologi cattolici, economisti cattolici, che l'economia capitalistica fosse l'unico orizzonte. Ecco, ma è possibile un socialismo non statalista? Certamente, certamente, certamente. Direi che io penso che l'umanesimo cristiano è la soluzione dei problemi di oggi. Diciamo Mounier, che ha scritto il fondamentale libro Personalismo e Comunitarismo, ci insegnava che bisogna trovare una terza via e questa terza via non può che essere, ripeto, c'è posto per tutti, per tutte le forme di imprese, ma c'è una via dove l'impresa come comunità, dove c'è naturalmente c'è una divisione di interessi parziali, ma c'è il fine di che cosa? Dell'aumento della produttività del lavoro unito ai volumi di produzione. Allora si raggiunge l'occupazione. In questa prospettiva l'Italia ha una grande tradizione. Eh no, come no? Nel non profit, sotto l'albero dell'economia morale, il grande albero dell'economia morale, sono nati dei frutti sia nella sinistra, sia, soprattutto nel mondo cattolico, ma anche nel mondo evangelico. C'è il filantropismo ebraico, cioè noi siamo stati addirittura i liberali sono stati alla testa, lei pensi a Luzzatti e al ruolo nelle banche cooperative che ora sono diventate soprattutto banche di orientamento cattolico. Ma l'Italia è uno dei paesi più interessanti, più studiati al mondo. Stupisce che i nostri professori non lo studino, però insomma non si può chiedere troppo, soprattutto bisognerebbe chiedere di non essere troppo bocconiani, quindi questo è, ma so che sono discorsi che qui non si possono fare. No, si possono fare. Tanto abbiamo avuto ospiti anche dei bocconiani che hanno difeso la loro visione. Appunto, sì, hanno difeso una loro visione del mondo che ci ha portato alla catastrofe, quindi questo mi sembra evidente. Cioè ci vuole un'economia dal volto umano. Ci vuole un'economia, un capitalismo temperato, come ci avevano insegnato i due grandi maestri dell'economia italiana, che erano Enrico Mattei e Adriano Olivetti. Che hanno costruito delle imprese. Hanno costruito delle imprese che facevano dei margini spaventosi. Ma però che ci hanno insegnato che senza grandi ideali civili non si dirigono le imprese. Ecco, ma questo tanto parlare di responsabilità sociale dell'impresa. Beh, io sono uno dei responsabili di questi perché ho scritto molto. Me ne sono un po' pentito perché quando queste cose vanno in mano alle varie McKinsey, Bay e Cuneo, allora sei morto. Per questo dico parole. Ecco. Quando vanno in mano ai professionisti della corporate social responsibility, è morta. C'è cioè più non corporate... è una tecnica la cosa. No, è un afflato morale che deve coinvolgere l'imprenditore e il management. Non può essere una funzione specifica, deve essere una cultura che dilaga per l'impresa e che uno si ricordi che qualsiasi comportamento ha un effetto economico. Certo. Diciamo, la mano invisibile del mercato non esiste, sono tutte mani invisibili e spesso sono invisible handshake, sono strette di mano. Bisognerebbe che fossero strette di mano benefiche e non collusive. Beh, il mercato ogni tanto dà qualche schiaffone anche. Sì, però se è ben temperato, oltre a dare uno schiaffone, dà anche una mano agli ultimi e li fa andare avanti. Ecco, ma il rischio di, come dicevo prima, di scivolare nello statalismo, cioè Sì, oggi c'è, anche perché la prima risposta che abbiamo dato alla crisi, perché abbiamo pensato a non salvare le persone, ma le banche, è stato lo statalismo. È stupefacente che tutti questi che ci hanno rotto le scatole, ci hanno veramente annoiato col fatto che il mercato doveva decidere tutto. Poi quando lo Stato inglese ha salvato le banche, l'America ha salvato le banche e le imprese automobilistiche, non si siano fatte neanche. Cioè, il problema vero è che bisogna avere un approccio non ideologico ma pragmatico all'economia. Perché serve molto la storia economica? Se tu sei parte della storia economica, non puoi essere un economista neoclassico. Cioè non puoi pensare che c'è un solo modo, il modo ottimale per organizzare l'economia. Ogni tempo ha le sue economie. C'è stato un periodo in cui l'intervento dello Stato è stato benefico e ci sono stati periodi in cui bisogna fare la liberalizzazione. Infatti, è un problema di responsabilità delle persone. È un problema soprattutto di responsabilità delle persone. Ci sono alcuni che sono contrari a questo mio modo di dire, mi hanno detto, ma tu non vuoi le regole. Per carità, io voglio le regole, ma voglio uno Stato frugale, con regole frugali. Più controlli ci sono, più regolamenti ci sono, più leggi ci sono, più si elidono. Invece l'autoregolazione, il buon comportamento... una buona moral suasion. Certo che se poi il mercato premia i mascalzoni e le famiglie danno da sposare le figlie, io ho una visione arcaica, come lei vede, ha dei mascalzoni, è chiaro che tutto va a rotoli. Ecco. Ma se l'economia funzionasse come dovrebbe... Però adesso l'economia funziona, ha dei momenti in cui ha qualche difficoltà in più. Amico mio, quando impareremo, e non è una critica a lei naturalmente, a capire che l'economia funziona quando c'è il pieno impiego... cambieremo tutto. Io mi ricordo, io sono stato molto amico di Enzo Tarantelli e smettemmo di andare a dei seminari di illustri economisti perché abbiamo detto scusate ma parliamo di crisi, la crisi, i tassi, ma con tassi di disoccupazione, lei si ricorderà, negli anni 70, 12, siamo arrivati al 12, 30%. Secondo me un'economia funziona bene quando tende alla piena occupazione. E invece si teorizza una certa disoccupazione come elemento di stabilizzazione come del mercato. Di stabilizzazione del mercato e di stabilizzazione sociale, perché bisogna fare un po' paura alla gente. E l'uso del potere, che come diceva Max Weber, è l'uso della forza o la minaccia dell'uso della forza. E questo non può essere un'economia retta secondo principi cristiani, è un'economia... E qui torniamo anche appunto al ruolo che possono avere istituzioni non specificatamente economiche in senso stretto, perché la piena occupazione dovrebbe essere garantita anche attraverso dei servizi sociali più estesi. Sì, sì. Ma qui entra il principio di sussidiarietà. Tutto questo discorso, secondo me, è molto importante della Big Society, che mi fa un po' ridere che adesso lo facciano i conservatori inglesi, perché è nato nel laburismo australiano. David Hook, che è stato il grande capo dei laburisti in Australia, inventò la Welfare Society, no? Che oggi è di gran moda e portano avanti questa bandiera i conservatori. Questa è una tipica bandiera che nasce nel comunitarismo guildista inglese, diciamo il movimento Fabiano. Ma in fondo l'Italia ha una grande tradizione di sussidiarietà. Sì, è una tradizione di sussidiarietà che è soprattutto cattolica e che dovrebbe però essere sposata fino in fondo anche dal mondo laico, che dovrebbe fare di questa tradizione di sussidiarietà una sua battaglia, perché è di un nuovo liberalismo, un liberalismo più all'americana, no? All'anglosassone, liberals, dove è la società, la Tocqueville, no? È la società che conta, una società in cui viene prima dello Stato. Però, però per far questo bisogna risparmiare, bisogna essere parchi, perché la società di mutuo soccorso non si fondavano sui sussidi dello Stato come oggi, ma sul risparmio degli operai. Certo. Ecco, un'ultima cosa, siamo purtroppo in conclusione, Sapelli. L'anno è già iniziato da qualche giorno, da qualche settimana, però un augurio per questo 2011 all'Italia. Che ci dia più lavoro e più speranza ai giovani e che i giovani ritrovino dei maestri. I giovani sono il nostro futuro, ma il nostro futuro è anche quello che noi potremo riuscire a costruire. Sì, sono convinto. E che noi agiamo con più umiltà e consapevolezza dei nostri limiti. Grazie a Giorgio Sapelli per questa chiacchierata un po' a briglie sciolte, abbiamo visto magari un po' confusamente, ma penso anche con chiarezza e con un po' di vis polemica la realtà italiana. Grazie a Giulio Sapelli, grazie anche a Valeria Bernardi in regia, Rita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buon pomeriggio.